Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, quindi andiamo subito a salutare il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, oggi di che cosa ci parli? Ma parliamo di una vicenda che è capitata negli uffici pochi giorni fa, di una persona che si è trovata improvvisamente senza luce e senza gas per cause e motivi che non riusciva a capire, di cui si è rivolto ai nostri uffici legali e chiaramente con l'intervento dell'Adico siamo riusciti a risolvere in tempi molto celeri e con grande soddisfazione. Ma una vicenda che colgo l'occasione di parlare con te, perché per un disguido che l'Enel ha fatto nei confronti di questa persona è una situazione che potrebbe capitare a chiunque di noi. Ecco, allora spieghiamola bene, cosa è successo? Praticamente il signore non riceveva le bollette e di conseguenza, a fronte di queste bollette che non riceveva, ha cominciato a inviare delle raccomandate, dei fax e dei solleciti evidenziando le cose. A tutta risposta di questo, un bel giorno si è trovato senza gas e malgrado continuava a insistere sul fatto che non riceveva bollette e non capiva dove stava l'inghippo, si è trovato poi senza luce. In tutta questa vicenda il signore poi ha fatto anche dei rialacci, esattamente ha speso 70 euro per il gas e 120 euro per l'energia elettrica, ma di fronte a quelli che sono stati dei riallacciamenti il signore si è trovato di nuovo senza acqua e senza luce, di che non venendone a capo e la situazione trascinandosi per oltre un anno si è rivolto al nostro ufficio, il quale il nostro ufficio, esaminando la pratica e individuando subito dove stava l'inghippo, ha mandato una diffida all'Enel e nel giro di qualche giorno siamo riusciti a risolvere la controversia in modo che anche l'Enel possa restituire, oltre ai soldi dei rialacci, anche un forfè per i disagi che il socio ha dovuto sostenere. Queste cose qui, se capitano, sarebbe bello che si risolvessero direttamente con l'interessato, invece ahimè bisogna sempre ricorrere fortunatamente alle associazioni di categoria che a qualcosa servono. Sì, certamente questa situazione dimostra come le persone con molta difficoltà riescano a rapportarsi con gli enti e con i gestori. In questo caso il signore è stato anche un signore molto solerte e preciso, aveva mandato diverse raccomandate e fax e è riuscito anche a documentare tutto, ma questo dimostra come malgrado avesse ragione e il signore ha tentato anche di farla operare in maniera corretta, l'Enel non ha saputo dare riscontro alle sue iniziative e anche a procedere d'ufficio. Certamente anche le motivazioni che insomma l'azienda ha dato ha lasciato un po' il tempo che trova, perché alla fine si sono giustificati dicendo che l'azienda ha sbagliato a inserire nel gestionale un codice di avviamento postale, riconoscendo come tutte le attività, le risposte e i solleciti aveva mandati sempre a un indirizzo sbagliato. Ma certamente mi viene anche a me da pensarla un po' allo stesso modo con cui tu mi hai fatto la domanda, e cioè notare come se non intervengono certe associazioni, l'Adico in questo caso, oppure chi è addentrato in questi mestieri, certamente il cittadino con questi gestori fatica molto a doversi rapportare e a ottenere delle risposte anche per delle banali controversie. Per fortuna esiste l'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it è il sito e quindi è una gran bella cosa. A proposito, tu Carlo sei stato il fondatore dell'Adico di Mestre. Sì, esattamente, l'Adico ha circa 30 anni, ricordiamo che opera da 1988, per cui 28 per la precisazione, sono presidente da 16 e devo dire che con grande sorpresa non termino mai di occuparmi di attività che ogni giorno si propongono in maniera diversa. Trovare una famiglia che in questo caso si è trovata senza luce e senza gas in inverno per questi disguidi, veramente mi sorprende ancora come faccio ad arrabbiarmi rispetto a quelle certe situazioni che invece dovrei abituarmi a vedere, ma che in realtà poi si ripropongono sempre, come detto, in maniera diversa. Va bene, grazie all'Adico, grazie a Carlo Garofolini, che ritroveremo nel prossimo appuntamento lunedì. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.